Europa 24. Bentrovati da Maria Luisa Pezzali. In questo nuovo appuntamento con Europa 24 parliamo di reshoring. È un fenomeno che riguarda le aziende, è l'opposto dell'offshoring, consiste in pratica nel rientro della produzione in patria. Negli ultimi anni, prima e durante la crisi, migliaia di aziende hanno delocalizzato la produzione. Ora molte scelgono di tornare indietro, spinte da fattori come l'indebolimento dell'euro verso il dollaro, l'aumento del costo del lavoro nel Far East, in Cina soprattutto, gli incentivi fiscali nel proprio paese, la necessità di maggiore velocità, flessibilità e controllo della filiera. Negli Stati Uniti oltre il 20% delle grandi aziende sta tornando a produrre in patria. Nel Regno Unito la quota di aziende che ha riportato la produzione a casa lo scorso anno ha superato quella di chi ha delocalizzato. Esempi ai quali paesi come l'Italia, la Germania, la Francia e l'Olanda guardano con attenzione e che Bruxelles sostiene con fondi ad hoc nell'ambito della programmazione comunitaria. Quella 2014-2020 prevede per l'Italia l'attivazione di circa 70 miliardi di euro, un'opportunità che il settore della manifattura ha deciso di cogliere senza esitazione. Claudio Marenzi, presidente di Sistema Moda Italia. I fondi europei sul reshoring partono fondamentalmente dal patent box e per cui su delle basi di una detassazione sulle attività di brevetti, per cui visto che comunque questo vale anche per beni su terzi, la cosa fondamentale a questo punto è poterlo utilizzare anche per riportare produzione e per cui attività produttive nel tessile e abbigliamento anche contro terzi. Voi avete lanciato un progetto importante in partnership con Pricewaterhouse, in cosa consiste? Abbiamo individuato due aree, una nord, una sud, il Veneto e le Puglie. Ricordo che in Puglia ci sono 25.000 casse integrati solo nell'abbigliamento, quindi numeri impressionanti, poi anche con una perdita di know-how importante al di là del dramma personale. E per cui l'idea è quella di organizzare delle produzioni che fino adesso sono state fatte all'estero, e per fare questo bisogna individuare dei gruppi, devono fare da leader, e attraverso appunto la collaborazione con Pricewaterhouse, ma non solo, con Unicredit che potrà gestire più facilmente la parte di reverse factoring in modo tale che le aziende possano accedere più facilmente a crediti, dovremmo riportare una parte della produzione in questi due territori. Chiaro che questi sono solo l'inizio, perché poi è chiaro che questa pratica dovrà poi essere estesa a tutto il territorio italiano. Dove si è delocalizzato di più in questi anni nel vostro settore? Da dove si deve tornare indietro? Per entrare in Italia è chiaro che bisognerebbe riprendere il lavoro più vicino, in Europa dell'Est piuttosto che fuori dall'Europa, ma sempre vicino a noi, nel territorio geograficamente europeo. È chiaro che invece si è pesantemente delocalizzato in Asia, per cui in Cina e poi dalla Cina in tutta una serie di stati satelliti come Bangladesh, Vietnam, Laos e quant'altro. È chiaro che più ci allontaniamo, più andiamo verso est, per cui in questo caso l'estremo oriente, più il gap è difficilmente colmabile. Però diciamo che questo deve essere l'obiettivo. Deve essere l'obiettivo anche perché, e questo è un ulteriore passo, stiamo ragionando anche con il Ministero dello Sviluppo Economico per capire quali possono essere le agevolazioni. Posso immaginare, o chiaro che solo lo studio, non c'è ancora nulla di sicuro, una detassazione, e qui rientra il discorso del patent box. Su appunto rientri di questo genere non sarà facile. È chiaro che sul campo, a mio avviso, dobbiamo lasciare un po' tutti qualche cosa, un po' di marginalità bisogna lasciarla, però in questo momento dove anche i grandi gruppi hanno bisogno di un time to market molto più stretto, per cui una risposta molto flessibile sui punti vendita, questo potrebbe essere una via. È chiaro che poi la ciliegina sulla torta sarebbe riuscire a ottenere il riconoscimento del Made In a livello europeo, già solo quello riporterebbe molto lavoro in Italia. Ed è tutto per Europa 24, un saluto da Maria Luisa Pezzali. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.